sabato 23 ottobre alle ore 15:30 al Circolo di Cultura Mario Mieli, via Efeso 2, Roma, si terrà un'assemblea dibattito sulla depatologizzazione del transessualismo. Nel 2012 uscirà la quinta versione del manuale diagnostico dei disturbi mentali e il transessualismo da disturbo dell'identità di genere diventerà incongruenza di genere. Partecipa anche tu a questa iniziativa per dire sì alla libertà di scelta di tutte e di tutti. Transizione di fase verso il Roma Europride 2011.